La mattina del 29 maggio a Carpi si pensava a come portare aiuto nei comuni vicini, sventrati dal terremoto di 9 giorni prima. La sera del 29, dopo 2 scosse devastanti, il sindaco pensava a come riceverli gli aiuti per i suoi 70.000 abitanti. Ai margini del cratere sismico, Carpi ha superato la prova relativamente bene. Non ci sono sfollati nelle tende, le scuole sono partite, l'ospedale è quasi pronto, ma in città sono ancora molte le impalcature e le transenne. Dopo Ferrara, Carpi ha subito i danni più ingenti al patrimonio artistico e il futuro è tutto da ripensare, perché il terremoto cambia i cittadini. Il sindaco Enrico Campedelli. Cambiano gli ordini di priorità. Cioè, faccio un esempio dalle cose più banali: mentre prima, non so, abitare in centro storico per un cittadino carpigiano era il massimo della vita, adesso prima di guardare il centro storico ci vai 2 volte. Se prima, non so, comprare un appartamento o affittare un appartamento nei piani alti dei palazzi, no? Gli attici o queste cose qua, adesso diciamo è un po' diversa la situazione, no? E si aprono nuove problematiche. Faccio un altro esempio sul tema degli anziani: mentre noi abbiamo 5 strutture per anziani gestite dall'ASP nell'Unione dei Comuni, 3 di queste sono a Carpi, tutta il diurno per gli anziani, l'assistenza domiciliare su cui avevamo investito molto. Oggi, nel ritorno degli anziani dalle strutture cui avevamo, li avevamo portati, no? Queste persone in appartamento, casomai, pur essendo semi autosufficienti, non vogliono più andare. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Carpi.